ci sarà qualcosa che cambierà la tua vita inaspettatamente. Cosa poi succederà? Se questo ti condurrà, con rabbia spaventerà il tuo cuore, allora aspetta che la preghiera di Dio ti solleverà. L'amore è incancellabile, l'amore è incontenibile, l'amore si trasmette abitando sogni in libertà. L'amore è inseparabile, la fredda la paura che ti gela il cuore, che sorprende poco con l'amore che dai tu. Ogni volta che ami stai, preghi e tu però non lo sai, che diffondi l'amore di Gesù, che ascolta chi non sa come aiutare. La preghiera si estenderà, riportando serenità con l'amore, quello che Dio dà, suscitando solo felicità. L'amore è incancellabile, l'amore è incontenibile, l'amore si trasmette.